it's around. Make me tell you about Sally Brown. Make me tell you about Sally Brown. Sally Brown is a girl in town. Sally Brown is a girl in town. She don't mess around. Sally Brown is a slick chick. If you mess around with Sally, she hits you with a cook. Ora 21.30, questa è Radio Onda Rossa che modula sugli 87.9, ovviamente e per l'appunto in modulazione di frequenza e su www.ondarossa.info. Per quanto riguarda le comunicazioni mediante posta elettronica all'indirizzo della radio, è ondarossa@ondarossa.info. Per quanto concerne questo spazio, c'è la pagina Facebook Prove Tecniche di Trasmissione /Disorder, ma anche l'email che è disorder@ondarossa.info. Domani, come al solito, ci sarà la playlist e il podcast di questo programma, anche per oggi 15 novembre del 2021. Ricordo il conto corrente postale della radio, che è 61 80 40 01, che è uno dei modi per sottoscrivere per Radio Onda Rossa. Intestato Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via Revolci 56 00185 Roma. Uno dei modi, e l'altro modo è le iniziative che la radio fa di tanto in tanto nei centri sociali, come l'ultima che abbiamo fatto venerdì scorso al Forte Prenestino, con esiti direi molto lusinghieri per questa radio, con due ottimi concerti e il DJ set successivo. Saluto Alessandra qui a Roma, Nicola Locci di Stigmate, Maya, Stablo Rasa, Daniele Santagiuliana, That's the Carlo from Boston, Lucia Cagliazzi di Lupsi, Giulia qui a Roma. E poi Audio Chaos nella persona di Simone Scalise, la Dark Wave calabrese di qualità, il medico della peste. Jean-Claude Berthaud, Alberto Clipper di MDMA, Mosquita de Miramar dall'Olanda, da Harlem, un paesino cittadina dell'Olanda. E allora, si va ad iniziare e lo facciamo con un'ultima uscita di un gruppo al quale siamo particolarmente legati, da profonda simpatia, stima e ammirazione. Sto parlando dei Ministry, in attività da circa 35 anni, forse più, e che ci hanno deliziato con l'ennesima uscita proprio del 1 ottobre di quest'anno, dal nome Moral Hygiene. Gruppo che sovente ha minacciato lo scioglimento, poi per una regione e per l'altra, non ultima quella politica, soprattutto con Trump, e per stessa missione si sono, come dire, sentiti in obbligo di continuare a infastidire il potere, come dicono loro, e soprattutto a fornirci, a regalarci della ottima musica. Mora Aigin, dal quale estraiamo Alert Level e Good Trouble. How concerned are you? How concerned are you? How concerned are you? How concerned are you? How concerned? How concerned are you? Sister, is late to us. Ottimo ritorno, devo dire, per i ministri di Al Jorgensen, si chiama Moral Hygiene. Uno dei pochi progetti che è riuscito a creare un equilibrio pressoché perfetto tra industrial e metal, cercando di privilegiare nella maggior parte della attività discografica il primo aspetto, e io ovviamente me ne sono giovato. Sentite che ospiti, Yellow Biafra, ospite in questa terza traccia che ci ascolteremo la prossima settimana. E invece questa sera Alert Level e Good Trouble, le prime due tracce di questo ultimissimo lavoro. Al Jorgensen ha spesso dovuto cambiare, anche per cause di forza maggiore, i componenti della band. Che al momento dovrebbero essere, oltre a lui, John Bechdel, London May, Paul Damour. Ne leggo tre, ma è la fonte Discogs, e poi ci sono foto che compaiono altri personaggi, ma credo che in linea di massima il nucleo principale sia questo. Visti anche recentemente qui a Roma con un pupazzo di Trump preso a calci per tutto il concerto. Trump è prima della fine della sua avventura presidenziale, e quindi stiamo parlando del 2018, se non ricordo male. Saluto Francesco, Tania, Cecilia di Pindar. Esatto, Moschita ci fa notare come Yellow Biafra, al pari di Lard, partecipa e insieme ad Al Jorgensen. Andiamo avanti e arriviamo qui in Italia, dove l'elemento diciamo metallo, metal che dir si voglia, qui viene contaminato dallo sludge e dal noise, e sto parlando di Hate e Merda. Progetto interessantissimo, credo toscano, proprio di Firenze. E ci andiamo un po' a gustare e a riscoprire questo anno dell'odio, l'anno dell'odio del 2014, che al pari di tutto il resto del materiale si può scaricare in free download dal loro profilo Bandcamp. E quindi ci ascoltiamo. Ascoltare con dolore, carne gotica e piogge di cicatrici e sogni negati. Thank you. e dunque un inizio di disorder particolarmente arcigno tra Ministry e Hate e Merda, dove l'elemento chitarra, l'elemento metal, ma soprattutto l'elemento rumore è stata una colonna portante di questi prima mezz'ora, già passate mezz'ora di disorder. Perché il noise, perché...